灵和中枢。Allora, il capoverso che inizia, l'hotel o il loger, se distinguete sotto, 17 pagine a partire dall'inizio della terza parte. Ci siamo? Come no? L'hotel o il loger, se distinguete sotto, par un jeto clapotant. Vedi se qualcuno. 49, così è stato. Aprite un po' gentilmente la finestra, con un caldo terribile, ma se è possibile. Sì. Poco poco, grazie. Okay. Dunque, allora voi sapete perfettamente, chi ha studiato musica, e penso che tutti siate molto esperti di musica, no? Che nella musica classica intendo dire Mozart, Beethoven, eccetera, in una sinfonia o in un concerto si alternano i tempi, sono cose che sanno anche i bambini questi. Si alternano i tempi evidentemente per motivi banalmente estetici, nel senso che a un tempo lento oppure drammatico si succede un tempo veloce secondo una logica che normalmente, parlo del tempo di Mozart per intenderci, insomma, cioè il tempo in una musica, ha avuto forse il fulgore, la genialità superiore, e normalmente finisce la sinfonia, ovvero il concerto, con un tempo veloce, incomincia con un allegretto o un tempo similare, naturalmente, e poi c'è un adagio in mezzo. Questo schema, grosso modo, grossissimo modo, normale o lento, poi al mezzo un tempo cupo, lentissimo, poi un tempo veloce, alla fine è uno schema che noi troviamo dappertutto, una cosa che si studia in musica direi subito appena uno comincia a occuparsi. E questa idea la possiamo trovare molto bene qui nell'Educazione Sentimentale. I tempi musicali dell'Educazione Sentimentale sono sostanzialmente molto simili fino a un certo punto. Cioè, come sono? C'è questo disperso racconto, disperso ma non privo di, come vi dicevo ieri, se non sbaglio, di tonalità romanzesca, tutt'altro, perché gli episodi che si leggono invece sono molto interessanti, ma c'è quest'idea di dispersione che personalmente io trovo squisita e trovo assolutamente moderno, tutto quello che è disperso, ecco, uso proprio questo aggettivo che mi sta venendo, tutto quello che è disperso, che è spezzettato, che è fratturato, che è relativo. Vorrei dirvi, insomma, e naturalmente voi conoscete ormai il mio spirito, alcuni da anni, che contro il Papa non c'entra niente, non ho detto tutto a me fa piacere, sostanzialmente, tutto quello che non sia monolitico, tutto quello che non sia monolitico. Questo alternarsi di toni quasi uguali in tutta la parte del romanzo che finora abbiamo conosciuto, è stata effettivamente con una genialità assoluta accompagnata dal fatto che i temi non sono molto dissimili tra di loro. C'è, se dovessimo dire un po' tutto, ci sono due cose. La descrizione della società del tempo in questo cammino verso la rivolta del 48, che è una rivolta epocale. Ancora oggi si dice nel linguaggio, voi siete probabilmente troppo, anzi sicuramente, cioè, non siete giovani, siete fermi dalla giovinezza, ma quando uno vuole fare quello che alcuni anni fa era interdetta come parola, quando uno vuole fare un casino, quando io ero ragazzo, questa parola non si poteva dire, è assolutamente vietata, no? Assolutamente. Si diceva, uno vuole fare un 48. Qui da una parte c'è il racconto di questa società che si apre pian piano alla rivoluzione in modo composito, in Francia, in Italia, ma in altre parti d'Europa. Dall'altra parte c'è una storia semplicissima, la ricerca da parte di Frédéric di questo amore non solo non corrisposto, ma non corrispondibile. E la finezza sta in questo, che non è solo non corrispondibile per il fatto che lei è sposata, no, e qui è il punto su cui credo Flaubert sarebbe molto contento, Flaubert, di sapere un'osservazione come quella, di sentire, da lui che amava tanto che nel suo romanzo si notassero le sottigliezze. Non è solo il punto che lei non corrisponda e lui sia infuocatissimo. Questa è una lettura sicuramente vera, ma un pochino parziale. È che lui è fiacco, questo è il punto, è che lui non sa esattamente cosa vuole, questa è la novità appunto del romanzo. Anche se crede di sapere quello che vuole, e il lettore con il common reader dice senz'altro, ah povero Frédéric, lui non riesce a trovare la donna amata, eccetera, ma il reader che voi dovete diventare, perché siete all'università per questo, non per altro, cioè non tanto comune, insomma, più raffinato possibile, si rende conto invece che il bacco, per così dire, sta anche in Frédéric. Ma tornando ai tempi sinfonici, la musica, i tempi sono sempre quelli, fino a questo punto. A questo punto c'è un tempo molto lento, con un episodio molto strano, perché la scena si sposta da Parigi, dove, ricordiamo, abbiamo sempre visto questo peregrinare di Frédéric da una casa all'altra, da Madame Arnoux, dagli Arnoux, alla casa di Rosanet, alla casa degli amici, alla casa di Madame d'Ambrose, la ricca, che poi vedremo ancora quello che succede. Ma eravamo sostanzialmente sempre a Parigi. Adesso c'è una sosta, proprio nel massimo della battaglia c'è una sosta. Frédéric se ne va. Dove se ne va? Se ne va in un luogo, come dice? No, non va a paese suo. Vede, questa ragazza talmente piena la mente del suo paese, del Ciletto, che non pensa tanto che ha sostanzialmente due pensieri in testa. Uno di andare a Federico II. E l'altro di andare nel paese di Cinetto, ma non è così. E questo è utile. C'è una terza soluzione. Va in un posto dove non è mai stato. Dove non è mai stato. Ed è un posto fuori dal mondo, in senso reale. Va in una sorta di paradiso. Perché ci va? Perché non ne può più dell'inferno. Ecco, diciamo così. L'inferno che è Parigi, l'inferno che è diventato Madame Arnoux. L'inferno che sono gli ideali politici traditi. Questo posto, attenzione, fuori dal tempo, come una sorta di cimitero, è Fontainebleau. Fontainebleau è una cittadina vicino a Parigi che è stata costruita intorno al castello di Fontainebleau. Cos'è il castello di Fontainebleau? Il castello di Fontainebleau è una residenza regale. E fu attivata come residenza regale ai tempi di Francesco I, quindi siamo nel 500, e rimase in auge come tale fino ai tempi di Napoleone III, quindi siamo in avanzato nella seconda metà dell'Ottocento. Si trattava di una enorme dimora, come tutte le dimore regali normalmente sono, differente da Versailles. Differente da Versailles. Versailles, vedete, significa proprio il trionfo del potere. Versailles vuol dire Luigi XIV sostanzialmente, insomma, il trionfo del potere. Fontainebleau è una specie di residenza di lusso, che altro che di lusso, evidentemente, di campagna, piena di giardini tutto intorno, e vicino alla foresta di Fontainebleau, che era una riserva di caccia, ovviamente riserva di caccia, che era i sovrani, la corte. Come si presentava internamente? Si presentava con una serie inimmaginabile di arazzi, di figure allegoriche, di figure manieristiche. Il manierismo è una delle cose più belle che si possono studiare, se voi avrete occasione di studiarlo nel corso dell'università, insomma. Che cos'è il manierismo? Il manierismo è, molto semplicemente, fare il verso, lo dico in modo estremamente semplificato, seguire le tracce di alcuni grandi. E seguendo le tracce, facendo il verso di alcuni grandi, noi abbiamo avuto alcuni tra i massimi pittori di ogni tempo, no? Chi avesse, anzi, anzitutto una cosa che miro sempre a dirvi è questa, insomma, lo studio all'università in una facoltà di lettere non può mai essere settoriale, no? Cioè non si può immaginare che uno studi, non so, letteratura francese e non studi altre cose intorno. Invece la letteratura francese si alimenta di letteratura italiana, di filosofia, manco a dire, di pittura, di musica, eccetera. Apro e chiudo la parentesi. Noi abbiamo avuto dei grandi nel Rinascimento, no? Nella pittura. Ne abbiamo avuti due, cioè ne abbiamo avuti infiniti, ma due emergono su tutti. Chi sono? Vediamo un po'. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci è uno, e l'altro? Michelangelo. Molti pittori hanno cercato di adeguarsi a loro, di seguire i loro moduli, le loro invenzioni, soprattutto Michelangelo, devo dire. E sono questi manieristi, quelli che usavano una maniera. Ne cito uno meraviglioso, che sta agli Uffizi, che sta agli Uffizi, e io vi consiglierei di programmare una parte, una gita, con tutte le noie che comporta andare agli Uffizi, che sono enormi, di prenotazioni, di fila, eccetera, eccetera. Per, come dici? No, niente. Che è sempre pieno di fila. Lo so, molto bene. E perché vale la pena di vedere? Ricordatevi bene che si va in un museo, mi diceva un grande critico d'arte con cui sono stato in contatto in vita mia, ma non per girare come fanno gli ignoranti, girare guardando la didascalia, questa è la battaglia di, guarda com'è bella, eccetera. No, si va per vedere un quadro, questo è il punto. Si va per vedere due quadri, diciamo, come da spendere tutti i soldi agli Uffizi, il viaggio. Beh, ricordatevi bene. Meno qua, e cosa vi ho detto della letteratura italiana contemporanea? Di non entrare mai a comprare. Che cos'è meglio fare per voi? Stare un'ora fermi in una stazione di servizio guardando le macchine che mettono benzina. E tempo meglio impiegato. Allora, ricordatevi quello che vi dico. È molto meglio andare a vedere tre quadri in un museo che 10. Incomparabilmente meglio. Dici, ma i soldi? Non importa. Quei tre quadri ti resteranno in mente. 10 di meno. 20 meno ancora. 100 non ti resteranno in mente. Se hai visto 100 quadri in una mostra, fai conto di non aver fatto nulla. Anzi, cioè di esserti confuso le idee. Bronzino, vi dicevo. Quindi andate a Firenze a vedere Bronzino. Angelo Bronzino. Queste deviazioni che faccio ritengo però che siano molto importanti, cercando di allargarvi un po' l'orizzonte, insomma. Allora, cosa vuol dire il manierismo? Il manierismo vuol dire, cioè, naturalmente in manierismo c'è in pittura, ma c'è anche in letteratura, no? Ma c'è in musica, c'è in musica. Ma perché, scusate, Franck, César Franck non è un manierista? Ammazza. Adesso siamo alle ultime fasi delle nostre lezioni, quindi di tanto in tanto vi butto lì dei suggerimenti. La celeberrima sinfonia di Franck, l'unica, grande, deve far parte della vostra cultura. Lui è un wagneriano, ma vedete come elabora Wagner. La sinfonia di Franck, l'unica, ragazzi. Stare in un posto manieristico vuol dire stare in un posto artificioso, artefatto. Voglio dire che il manierismo non ha in teoria un tempo. Michelangelo ha un suo tempo, ma il manierista no. Il manierista si è portato fuori dal tempo. Allora cosa vuol dire un palazzo gigantesco con tutta roba manieristica dentro? Cosa significa? Un posto fuori dal tempo. È chiaro il concetto? Beh, e lì lui ci va. Con chi ci va? Ci va con Rosanetta. Basta, troppo amore fallito e adesso vuole un amore vero. Ora però noi sappiamo bene che nella vita non è sufficiente dire vado con una donna, vado con un uomo, mi faccio una vertiginosa serie di sexual relationships e così ho costruito un amore. No. È il posto, una delle grandi stupidaggini dei tempi post-68eschi è stato che prima si scopa e poi si va a letto. E poi sì, poi si ama, scusate, ho detto la stessa cosa. Però guardate che l'orrore che ho fatto, il lapsus che ho fatto, è bellissimo. È bellissimo. È molto meno insignificante di quel che può sembrare. Cioè prima c'è il sesso, no? E poi ce l'avevo, e non è così, non funziona così, non funziona così. Questa è una delle ragioni per cui i giovani falliscono al 90% dei casi i loro rapporti. Il lapsus che ho fatto è bellissimo, è bellissimo, lapsus, ma proprio bellissimo. Quindi lui vuol persuadersi che ama Rosanetta, e siccome la malafede umana è grande, in qualche modo si persuade, dico in qualche modo perché... In realtà, poi, se trovi una donna vera, con la carne vera, con i glutei veri, non finti, poi a un certo punto ci prendi gusto. Ma se non ami, qui è tutto. Ci sono infinite persone che nella vita cercano di riaversi da una grave delusione amorosa provando con Tizio, Caio. E non ce la fanno. Non ce la fanno. Mantengono sempre una... mantengono sempre poi una tristezza di fondo, un senso di inappagamento. Però quando si sta male, voglio dire, uno si accontenta di quello che è, quindi lui si letteralmente si accontenta di Rosanetta, va con lei a Fontainebleau, dove? Non nel palazzo, evidentemente nel castello di Fontainebleau. Fontainebleau è una cittadina, va in un hotel. Ma insomma è un hotel molto particolare e vale la pena che il 28esimo capitoletto nostro lo dedichi al 29esimo, è così? Sì. Lo dedichiamo quindi, dandogli come titolo l'Hotel de Fontainebleau, è piccolissimo il capitoletto e comincia così, quello lì che è l'hotel qui lo c'è, sentite la descrizione dell'hotel dove va. L'hotel dove alloggiarono si distingueva dagli altri per un getto d'acqua. Sentite, godete tutto, per un getto d'acqua che chioccolava in mezzo al cortile. Ci siamo? Le porte de chambre s'ouvraient sur le corridor, comme dans les monastères. Cercant leur tonnaille des grands. Fournis de bons meubles, tendus d'indiennes et silencieuses, vu la rareté des voyageurs. Les longues maisons des bourgeois inoccupés passaient. Puis, sous leurs fenêtres, quand le jour tomba, des enfants dans la rue firent une partie de bar. Et cette tranquillité succédant pour eux au tumulte de bruit, leur causait une surprise, un apaisement. C'est la lettre des Français de la France. Un'altra pappa. Allora, com'è questo hotel? C'è un getto d'acqua. Le fontane sono piene di getti d'acqua, no? E zampini hanno un loro valore estetico, innegabile, ma danno soprattutto un senso di freschezza e di vita che si ripresenta. Ho visto l'altro giorno che ci sono alcuni di voi che hanno buttato delle cicche di sigarette nella fontanella. L'altro giorno vedevo, guardatevele bene perché è atto di profonda inciviltà, profonda inciviltà. Una fontana è fatta per darci un'idea di freschezza e di eternità al tempo stesso. Noi abbiamo vicino qui a Roma un posto con fontane meravigliose, proprio a due passi di qui, che è Tivoli, ed è Villa d'Este, merita che sia visitata. E c'era questo getto d'acqua e le porte si aprivano su un corridoio come un monastero. Se avete presente un convento, un monastero, tutte le porte sono uguali e si aprono sul corridoio. Sentite come questa descrizione, già il getto d'acqua iniziale e le porte che si aprono sul corridoio, dà un senso di ordine e di pace. La parola pace è richiamata esplicitamente dal monastero. Quella che diedero a loro era grande, come in genere tutte le stanze dei grandi hotel dell'epoca, era grande. Ma quest'idea della grandezza della stanza potrebbe effettivamente suggerirci qualcosa di poco intimo, no? Ma infatti lui non è venuto, se ben ci pensiamo, a cercare l'intimità con Rosanette. L'intimità uno la cerca con la donna che ama, allora uno cerca, che so, quando hai posto in villeggiatura, cerchi la mansarda. Io odio la mansarda personalmente, un senso di soffocamento tremendo, no? Una stanzetta così piccola, riparata, no? In cui fare l'amore, insomma, certo che fare l'amore in una palestra effettivamente è più, insomma, sconvolgente. Lei l'hai provato per l'amore in una palestra, ecco. Però qui il grande ti dà un'idea di riposo, cioè il disordine di Parigi ha bisogno, come contraltare, questo è il tempo della Sinfonia Roma, ha bisogno di riposo, ecco perché la camera è grande. Dovete sempre immaginare di essere, questo è un gioco che vi suggerisco, molto utile, molto bello, di essere voi Flaubert, voi Thomas Mann, voi Balzac, eccetera, eccetera, eccetera, voi Shakespeare. E dovete pensare, ma se io fossi Shakespeare, come direi a questo punto? Naturalmente è molto improbabile che riusciate a dirlo, come lo dice Shakespeare, per non parlare di altro, della struttura e di tutto. Però in questo modo riuscite a capire meglio la scelta dello scrittore. E a questo riguardo, tra le infinite teorie della critica, che ci sono state nel XX secolo, perché in realtà questa attività della critica, delle teorie della critica, è del XX secolo. Prima è molto più limitato il discorso, senza entrare in questo discorso intenso, insomma. Ma ce n'è una che mi pare particolarmente soddisfacente, tenendo conto che tutte le teorie della critica, escluse naturalmente alcune che sono merda, come lo strutturalismo, che purtroppo è passato nei licei, nelle scuole per un certo tempo. Il strutturalismo va bene per alcune cose, ma non per la letteratura. Va bene per l'antropologia e via di questo passo, per la psicanalisi anche sotto certi riguardi. La teoria più convincente, secondo me, è quella che fa capo a uno critico francese del XX secolo che si chiama Georges Poulet. E se avete occasione di vedere un libro che si chiama La conscience critique di Poulet, perché d'altra parte si può anche andare in una biblioteca e consultare, sono libri che non si trovano più naturalmente da molti anni. Lui dice sostanzialmente questo in due parole: bisogna bisogna, per il critico, risalire alla coscienza creatrice dell'autore. Fare uno sforzo. Cioè, proprio per così, mettiti nei panni dell'autore. Cosa direbbe a questo punto? Cosa farebbe a questo punto? Questo tipo di gioco noi l'abbiamo fatto per dire, nel caso di Flaubert è stato molto facilitato, perché Flaubert usa i suoi personaggi sempre allo stesso modo, come vi ho detto. Ma mettiamo che invece non ci fosse questo schema narrativo e uno volesse cambiare. Ma come cambierei? Come farei? Ecco il punto. Come farei? Una volta, mi ricordo di aver sentito una cosa, ero in macchina, era Mozart. E insomma, io tutta la vita che sento musica, ho orecchie, e però non era Mozart. E naturalmente era in corso questa esecuzione, e io non riuscivo a capire, ma com'è possibile? Questo è Mozart. C'è qualcosa però che non è nuovo. Allora poi vengono le solite cose, sarà Salieri, sarà qualcuno. E a un certo punto, alla fine, come sapete, dicono sempre chi è l'autore. Insomma. L'autore era il padre di Mozart. E si avvertiva che questa è cosa, a ripensarci, infinitamente più di grana grossa rispetto al sommo Amadeus. E qualcuno assai più bravo di me l'avrebbe capito infinitamente meglio. E allora uno dice, ma se io fossi Mozart, immaginiamo, come farei adesso? Quale variazione farei? Allora, se noi fossimo Flaubert, come descriveremmo questa stanza d'albergo? Quel grande, anche se vi fissate in questo passo soltanto sull'aggettivo grande, va bene. Quel grande, l'idea proprio della spaziosità. Se tu vuoi riposarti, hai bisogno del getto d'acqua dalla fontana, hai bisogno delle camere da monastero e hai bisogno di una camera grande, non piccola. Non piccola. Il piccolo ti affatica. Cosa fa in questa? Come sono arredate queste stanze? Sono fornite di buoni mobili. Oh, attenzione ragazzi. Cosa ha detto? Buoni? Ha detto mobili prestigiosi o no? Ha usato la parola prestigioso? Di grande lusso? No, perché ti stanca il lusso. È pesante il lusso. È pesante. Buoni? Lo senti questa medietà come ti tranquillizza? Come? Di leggerezza, esattamente. Come ti tranquillizza, no? Se tu volessi vivere una vita coniugale, io faccio spesso esempi che tratti dall'esistenza, come ben sapete, una vita tutta su alti profili, ma tu non la leggi una vita coniugale tutta su alti profili. Una bisogna di mettersi in pantofole, una bisogna non solo di avere mobili di lusso, cioè se li ha, insomma. Ma io ho visto una casa, per esempio, che ho frequentato per molti anni, una delle case più lussuose di Roma, sicuramente, dove ero ospite fisso. Ma era quella del mio maestro, che era Giovanni Macchia, che era uno stramiliardario, detto per inciso. C'era un quadro di Picasso in casa, Tiziano, cose di questo genere. Ma era staccante. Era staccantissima. E qui vedete come questa casa, questo caso, questo hotel invece non è stancante, ma sentite ancora. E, c'erano tendu indienne, c'era una stoffa di tappezzeria, di tela, eccetera, tutto molto normale, silenziosa, dice esplicitamente, perché c'erano pochi viaggiatori, perché con quel diavolo di baccano di macello che stava succedendo a Parigi non era un tempo particolarmente adatto per andare in vacanza. Ma se noi leggiamo questo passo, noi lettori leggiamo questo passo, arrivati a questo punto, dopo poche righe, l'arte è questa, ci sentiamo già meglio, ci sentiamo già riposati. Ecco. Possiamo anche tornare a Parigi a questo punto, dopo aver visto queste cose, Possiamo tornare a Parigi. C'erano dei borghesi inoccupati che non facevano un tubo, borghesi che passeggiavano, non facevano niente, capite? Là si stavano ammazzando, si stavano scannando a Parigi, E poi c'erano dei bambini, se non sbaglio, certo, che giocavano a bar, cioè a Roma Bandiera più o meno. Sapete giocare, qualcuno di voi conosce il gioco Roma Bandiera? L'avete mai giocato? No, eh? Ecco, lei si gioca nel cinetto Roma Bandiera? C'è un fazzoletto in mezzo, un ragazzino di qui, uno di là. Lo conosce. Uno deve cercare di prendere il fazzoletto e di non farsi toccare da un altro. Ecco. Credo sia una cosa di questo genere qui. Benissimo. Niente. E questa tranquillità, diceva, succedendo per loro ai tumulti di Parigi, causava una sorpresa e un senso di pace. Non solo un senso di pace, ma anche una sorpresa, perché venivano da quello che veniva. E c'è adesso la loro vita lì. Purtroppo mi corre l'obbligo andare oltre e non leggervi una cosa bellissima che lui dice, non vi dirò, non la metterò come capitoletto, però non posso non dirvi questa cosa, poco dopo si trova. Le residenze reali, qui si parla non dell'hotel evidentemente dove sono loro, ma si parla del castello di Fontainebleau. Le residenze reali che loro visitano, naturalmente, hanno in esse, hanno in sé una malinconia particolare, sentite questa frase che vi sto leggendo, una malinconia particolare che dipende senza dubbio dalle loro dimensioni troppo grandi per il piccolo numero degli ospiti, dal silenzio che si è sorpresi di trovare dopo tante fanfare, dal lusso immobile che prova la vecchiezza e la fugacità delle dinastie. Se avete avuto l'occasione di visitare queste grandi Versailles, per esempio, quello che colpisce in queste visite è ma tutto questo lusso, tutta questa ricchezza sconfinata, tutte le trame amorose e di morte che ci sono state dietro, è scomparso tutto. In un libro che non è un granché, che è stato considerato un caso letterario, non di adesso, se non ne parlerei nemmeno perché sapete cosa invece. Un libro che non è un granché, si chiama Il Gatto Pardo, forse qualcuno lo ricorderà, ecco, lo ricorderà. E c'è però delle cose belle, intelligenti, e la fine è bellissima, perché alla fine c'è un cane impagliato. Chi ha letto Il Gatto Pardo? Nessuno? Bravo. C'è alla fine un cane impagliato che era stato il cane di casa. E sapete, quando un animale muore, a volte, una volta lo si imbalsamava, lo si impagliava. Con le persone care non si può così. Se ti muore la madre, non puoi impagliare tua madre. No? Anche perché, diciamo la verità, spesso i genitori rompono i coglioni in tale modo nella vita che poi vengono impagliati per l'eternità, diventa una sorta di persecuzione tremenda. Ma a parte le battute, la bellezza degli animali è questa, che ti seguono fedelmente, poi quando non ci sono più tu lo impagli, no, forse io non lo farei mai, intendiamoci. Rimane, alla fine del Gatto Pardo, questo cagnolino impagliato, che si chiama Bendigo. E alla fine, nella consumazione dei tempi, per così dire, perché quando uno muore, quando tutto finisce, bisogna buttare tutto via. Tutto via. Questo rito del buttare via è spaventoso, perché è come se tu trafiggessi con il coltello quanto è rimasto nei tuoi ricordi, via questo ninnolo, via questa fotografia, e strappiamo una lettera che mi ricordava cose importanti, a buttar via tutto, tutto. E il cane? Viene buttato via il cane, viene buttato dalla finestra. E Tomasi di Lampedusa, l'autore del Gatto Pardo, finisce con questa frase meravigliosa, che sarei per dire va da sola tutto il romanzo. La frase è questa, cito a memoria: poi tutto trovò pace in un mucchietto di polvere grigia. Pulvi ses et in pulvere. pulvere revert eris, dice la Chiesa Cattolica. Sei polvere, in polvere tornerai. No? Sembra abbastanza impressionante vedere per esempio gli anziani di adesso, donne storte, brutte, vecchie, coppe, pelose, ed erano ragazze bellissime. Ragazze bellissime, io ho visto nell'università in tanti, io degli allievi, che ho avuto allievi che adesso hanno pochi anni meno di me, quindi ho incontrato una signora una volta, vedete, io sono stato una sua allieva, era una signora anziana. Sì. Io ogni tanto ho detto sulle tante anni, io le dico, signora, non credo. E la signora insisteva, dice, mi ricordo benissimo, e mi diceva anche dei fatti allucenti, alluzzanti, poi lei con quella ragazza, io dico, signora, non si permette. E poi mi ha dato dei fatti che era una mia allieva. E già nell'università si vede, guardando la fotografia del libretto universitario, Virgilio direbbe quanto mutata villa, perché vedi una ragazza dopo 6-7 anni, putagrosi, di università e di fuori corso, e vedi una ragazzina prima, adesso la vecchiaccia, stinta, spenta, sconfitta dagli anni, a volte mi capita di volontariato, come mai è questa? No? Purtroppo sì. E poi si comincia a sentire l'età, ho 36 anni come quest'età, fosse una cosa terribile, guardi 36 anni che io per tirare sul morale, non è niente, comincia la vita, eccetera. Non guardi, ha sbagliato, ho capito male, ne ho 46, discorso, è una sua variazione effettivamente. Allora, nelle residenze imperiali, noi abbiamo il senso della inanità del tutto. Ma sentite, cosa fanno Rosaletto? Al dunque, cosa fanno lì a Fontainebleau? Due pagine, tre, quattro. Dopo quattro pagine trovate il ne doutez pas qu'il ne fût heureux. Il ne doutez pas qu'il ne fût heureux. Quanto? 356. Allora, ascoltate bene ragazzi, diciamo delle cose molto, molto sottili, molto sottili. Come si fa a essere felici? Sembra una domanda di Marzullo questa. Come si fa a essere felici? Bisogna convincersi di essere felici. Questo è un punto sostanziale, no? Tu puoi avere tutte le cose che ti danno la felicità, ma se non ti convinci che sei felice, no? Ecco, e là io ho sempre detto, insomma, questa frase qui, tutta la responsabilità, naturalmente, che cos'è la felicità? E quando tutti i giorni della tua vita ti hanno dato 10 calci in culo, il giorno che ti hanno dati 9, per te è la felicità. Bisogna persuadersi di essere felici, che quella sia la moglie migliore, che quello sia il marito migliore, che quel tuo lavoro sia il più bello del mondo. Mi capita con degli impiegati, fanno dei lavori orrendi, timbri, cose del genere. Io me l'avevo detto ieri a una signora dell'amministrazione, gli ho detto, che bel lavoro, signora, sono sempre molto complimentoso con la signora, che bel lavoro, ho fatto anche un mezzo inchino, lei è una che mi ama molto, eccetera. Vero, è vero, la sua, ne sono appassionato, dice. E poi io dico, io, e poi è così vario, questa era l'ultima cosa che avrei dovuto dire, perché effettivamente, e allora lei mi ha guardato e mi ha detto, come vario? Perché neanche lei poteva credere che fosse vario. Io dico, sì, tante pratiche diverse. Questa è una delle battute più tragiche e felici che potevo dire. Sì, allora, bisogna persuadersi che vada bene. Allora, non dubitava che sarebbe stato felice fino alla fine dei suoi giorni, tanto la felicità gli sembrava naturale, inerente alla sua vita e alla persona di questa donna. Un bisogno la spingeva a lei di dirle tenerezze, la spingeva a dirle tenerezze. Ricordate che la parola tenerezza è molto importante, eh? Quando non sapete conquistare una persona, uomo o donna, ditele questa frase, ricordate che posso guardare. Tu hai bisogno di tenerezza, questo funziona sempre, funziona con vecchi, giovani, bambini, cani, funziona con tutti. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. Tu, la vostra madre, volete ottenere i soldi o qualcosa del genere? Mamma, vedo che hai un grande bisogno di tenerezza. Mi puoi dare 50 euro e vedete che funziona. Tu, non bisogna sentire. Lei rispondeva, lei, Rosanette, con parole gentili, con questo meraviglioso, con petit tap, con pacche, piccole pacche sulle spalle, e la cui dolcezza, e con dolcezza la cui sorpresa lo affascinava. E lui scopriva infine in lei una bellezza tanto nuova che non era forse che il riflesso delle cose circostanti, a meno che le virtualità segrete di queste cose non l'avessero fatta sbocciare. Quando si riposavano in mezzo alla campagna, lui si stendeva la testa sulle ginocchia di lei al riparo del suo ombrellino, oppure sdraiati sul ventre in mezzo all'erba restavano l'uno di fronte all'altro a guardarsi, immergendosi nelle pupille dell'altro, assetati di loro stessi, ma appagandosi sempre. E poi con le palpebre semichiuse non parlavano più. Qualche volta sentivano di lontano il rullo dei tamburi. Era radunata che si suonava nei villaggi per andare a difendere Parigi. Ah, guarda, la sommossa, diceva Frédéric con una pietà sdegnosa, tutta quell'agitazione gli sembrava miserabile, a petto del loro amore e della sua natura eterna. E parlavano di non importa che, di cose che sapevano perfettamente, persone che non gli interessavano, mille sciocchezze. E lei gli parlava della sua cameriera e del suo parrucchiere. Un giorno si sbagliò e gli disse la sua età. 29 anni, stava diventando vecchia. Vediamo. Allora, chi non ha avuto niente, capite? Il punto è questo. Chi ha mangiato in ristoranti di lusso, poi se lo porti al bar della facoltà di lettere di Tor Vergata, sputa. Diciamo le cose come stanno. Sputa. Ma chi ha mangiato radici nel deserto, immaginiamo, topi, ha bevuto il suo proprio piscio. Molti sono sopravvissuti in questo modo. Molti sono sopravvissuti in questo modo. Se volete anche voi, posso anche insegnare nei momenti di sete, si fa tutto un passaggio. Arriva al bar di Tor Vergata. Penso che sia una meraviglia. Quindi, Madame Arnaud non gli avrebbe dato una pacca sulle spalle affettuosa, per lui è morto. Non aveva un contatto fisico con lui. E adesso per lui tutto sembra nuovo, meraviglioso. Quando ci si risposa, una delle cose che avvengono inevitabilmente è fare il confronto fra quel tipo di tenerezza che ti dava la tua precedente consorte e quelle che ti dà l'attuale. E tu vedi quello che non hai più, ma forse anche quello che hai di nuovo. Di nuovo. Vedi, per esempio, in questo caso sarebbe diventata terribile, isterica, insopportabile. Vedi questa come meglio, però al tempo stesso, mi è capitato con una persona, mi piace molto raccontare questi fatti che rendono, come dire, più viva la lezione. Con una persona, faccio una confidenza, a un certo punto le ho detto in un linguaggio affettuoso: la signora, ma devo che sono l'uomo più amato del mondo, e questa è una persona che mi ama molto. Questa, sapete come mi ha risposto? Una persona a me che mi ama moltissimo, ma insomma non lo so. Dico, ah, ma culo. Ma come, perché no? Ah, non lo sai, ma perché non so se c'è un altro uomo in questo momento al mondo che l'ho amato di te, sai, io voglio essere precisa. Lì perché io ho ghiottita male la mia. Però poi ho pensato che questa è la stupenda anomalia e la differenza di ogni persona, no? Tempo fa abbiamo parlato, c'è una ragazza qui che è un lato un po', diciamo, particolare, una ragazza intelligente, non so se c'è in questo momento, e gli ho detto che ha un naso bellissimo. È vero. Perché il naso bello non è quello aquilino regolare, no. Il naso è una parte di te. Gli occhi non sono abbastanza grandi, ma rispetto a che cosa? Gli occhi sono i tuoi. Allora lui sta imparando chi è Rosanetta. Sta imparando chi è Rosanetta e dice... E hanno degli atti d'amore che sono quelli che tutti conoscete. Lui sta con la testa sui suoi ginocchi, oppure sta a boccone nell'erba, sono assetati di loro stessi e poi fanno l'amore. Al che voi potete dirmi, ma come assetati? Ma lui non ne amava un'altra? È questo che è difficile capire nella vita. Ma l'amore ha bisogno di storia. Se la storia non c'è, l'amore sbiadisce. Possono esistere gli amori a distanza? Non possono esistere. Pian piano se ne vanno. I più grandi amori se ne vanno con la distanza. Per concludere, arrivano i segni della rivolta di Parigi e però sono ormai in questa beatitudine completamente lontani. E lei, in una sorta di spontaneità, di naturalezza, a un certo punto le dice la sua età, che è un'età per una donna che può essere avanzata allora, naturalmente oggi si è bimbi quasi a questa età, dice ho 29 anni e si sentiva vecchia, che naturalmente per ogni donna, in qualunque epoca, il più grave di tutti i problemi. Fermiamoci qui, ci siamo soffermati un po' di più, ma come vedete io sconfino quando spesso la passione dell'argomento impedisce di fermarsi prima. Aspettiamo 5 minuti e poi lo prendiamo.